का जमाना बीतेगा रे बीतेगा 有毛的实力还要娶来当过心以为会捞几个眼子就在哪里做 我有一个 blue bomb 阿红桑他比就滚出来当 اسمعوني جيبوا شباب وما قلت البنات نطلع الجبل للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف violencia engendra violencia si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría se alimentan su cuerpo y sus neuronas megaphonics megaphonics megaphonics la música vista del cielo trasmissione musicale e geopoliticale E sì, siamo in 2014, 2014 un anniversario, infatti possiamo dire che la mondializzazione ha iniziato quasi 100 anni fa con questa guerra mondiale e sarebbe molto ambizioso di fare un giro di tutte le cose che sono successe a livello geopolitico dell'anno scorso. Diciamo che possiamo prendere qualche punti come l'entrata nella zona euro della Lettonia, le GIO che arrivano in Russia, molto contestati, lo vedremo. E poi infatti qualche siano gli osservatori di questo pianeta pieno di tensioni. Vediamo la resurgenza del nazionalismo identitario, un universalismo che è un internazionalismo che è molto in pericolo. Infatti che sia prendiamo all'est le tensioni tra il Giappone e la Cina o ancora un po' più all'ovest tra il Pakistan e l'India, se parliamo della Siria, parliamo dell'Israele che non si ferma nella strangolazione della Palestina, parliamo delle primavere arabi che non danno proprio le speranze che ha contato per esempio il popolo egiziano, senza parlare del Congo, anche del Mali o anche del Centrafrica. E comunque dunque un mondo di tensione per noi, il nostro punto di vista, il nostro focus, lo sapete, si fa in particolare sulla situazione delle donne in questo mondo, una metà della popolazione che soffre della violenza, dell'altra metà. Ricordiamo che in Europa la violenza degli uomini contro le donne è la prima causa di morte e non, questo non cambia. E dunque il nostro focus, anche se lo ripetiamo e può essere a lungo fastidioso, dare fastidio a noioso, comunque come diceva lo slogan, io sarò una post femminista in un post patriarcato. Hello, hello, planète Terre, planète en détresse, petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en pressais les nerfs à l'enfer. Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer.

tempo una libertà, cioè, un po' di più, diciamo, di libertà che del sotto Ben Ali, diciamo che con le condizioni economiche la la trasformazione non è stata così si sperava. E notiamo comunque, come lo dicevamo la settimana scorsa, nel GR avevamo parlato dell'articolo voto 20, che infatti la Costituzione che è stata scritta e che lo stanno scrivendo comunque ha preso le distanze con la Sharia. Infatti la Sharia non è la base della Costituzione tunisina, malgrado il fatto che il partito islamico Ennahda sta al potere e in maggiorità. Torniamo un po' sugli articoli che riguardano un po' le donne e l'articolo 20 votato la settimana scorsa stipula che tutti i cittadini e cittadine hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e sono uguali davanti alla legge senza nessuna discriminazione. Infatti ci ricordiamo che qualche mese fa le donne tunisine e altri sono scesi in piazza quando si voleva scrivere una forma di complementarità tra i sessi e infatti là c'è un passo avanti abbastanza importanti. L'associazione Human Rights Watch invece rimane molto critica verso quest'articolo, dicendo che i diritti dei migranti e immigrati non sono in questo momento con questo articolo veramente garantito, non è sicuro, diciamo. Le femministe hanno anche emesso dubbi per quanto riguarda l'articolo 21 che stipula la sacralità del diritto alla vita, articolo che lo sentiamo potrebbe mettere in pericolo il diritto all'aborto che le donne tunisine hanno da molto tempo. Invece ieri si votava l'articolo 45 che garantisce la parità della rappresentatività nelle istanze politiche. E dunque, con tutte le pinzette che mettiamo quando si parla delle donne nelle istanze politiche, e il fatto che lo sappiamo non risolverà tutte le situazioni, comunque volevo farvi sentire Amira Yayawi, che comunque è stata una donna di un'associazione che ha partecipato a questi dibattiti e che comunque è abbastanza entusiasta su il fatto che per la prima volta, anche se comunque lo sappiamo le leggi sono limitate e non possiamo aspettare tutto, comunque lei il suo entusiasmo mi ha dato la voglia di farlo condividere con voi. Io ci ho avuto le lacrime. Ne parlo ancora con molto emozione perché questo articolo ci ha anche fatto perdere la voce. Travailler pour lobbyer pour le voir voter, c'est une des plus grandes victoires de cette constitution. È una delle più grandi vittorie di questa costituzione. Passé, j'en parle encore avec énormément d'émotion. C'est un article qui nous a fait perdre la voix tellement on a travaillé pour lobbyer, pour le voir. Abbiamo lavorato molto per vederlo votato. C'est une des plus grandes victoires de cette constitution tunisienne. C'est une victoire non pas pour la Tunisie seulement, mais non è una vittoria solo per la Tunisia. D'abord pour les régions en Tunisie où la femme n'est pas. Ma anche nelle regioni in cui nelle regioni della Tunisia in cui le donne sono non pas représentées, assolutamente non rappresentate. Surtout et d'abord pour le reste du monde arabe ou un artiste. Et anche, soprattutto, e per prima, per tutto il mondo arabo. Comme ça, était imaginé que dans les rêves. Je suis très fière. Perché un articolo così non si poteva immaginare che solo nei sogni. En fait, être tunisienne en voyant un article comme ça écrit dans la constitution de mon pays. Et sono molto orgogliosa di essere tunisina. Tout cet article, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Il veut dire que les droits de la femme, la parité, l'engagement de la femme dans la vie politique et publique n'est pas que un concept occidental. Et une cosa importante, che vuole dire questo articolo? Questo articolo vuole dire che la partecipazione delle donne dentro il politico, dentro le decisioni, non è solo un concetto occidentale. Pays arabo-musulman très conservateur. Ma anche i paesi arabo-musulmani, anche conservatori. Inscrit dans sa constitution et ça aura un impact. Come il nostro, l'ha messo nella sua costituzione e avrà un impatto enorme sur le combat des femmes dans le reste de la région. Un impatto enorme per la lotta delle donne e per tutta la regione e il resto della regione. Rimaniamo in Tunisia con Emel Matlouti. E allora l'avrete sicuramente notato che non era Emel Matlouti ma Natasha Atlas dell'Egitto. Infatti l'Egitto era il nostro, la nostra tappa successiva. Dopo che è uscito questa fatwa, come dice l'articolo, le fatwa strambe e ridicole, cioè non si contano più. Si ricorda che in Indonesia quest'anno una fatwa aveva chiesto e vietato queste piccole, non sono le montagne, bosse che c'è sulla strada per rallentare, rallentatori, e dunque sono stati per fatto vietati in quest'isola dell'Indonesia perché non si deve incombrare la via e la strada verso Dio. Questa cosa che ci fa proprio ridere, comunque, quando si tratta della fatwa detta in Egitto in queste ultime settimane. Allora, abbiamo relazioni sessuali dopo la morte e matrimonio dall'età di 14 anni per le ragazze. Allora, dunque, è autorizzato un uomo a poppare, dopo questa fatwa che autorizza un uomo a poppare il seno di una collega, e che sarebbe l'unico modo permesso per un uomo di ritrovarsi sotto solo con una collega di lavoro, o anche autorizzare i suoi amici che vengono farti visita a casa a poppare il seno della moglie, e così diventi fratelli di latte con lui. E dunque queste fatue, cioè, che c'è ancora sul corpo delle donne. E dunque due altre sono dallo stesso genere, sono allo studio dal Parlamento egiziano. E questi due progetti sono il permesso per gli uomini di avere rapporti sessuali con la moglie fino a 6 ore dopo la morte di lei, e cioè, senza commento. E poi l'altro invece legalizzerebbe il matrimonio delle ragazze a partire di 14 anni. Mervat Al-Talawi, presidente del Consiglio nazionale delle donne in Egitto, ha chiamato il Parlamento, che lo sappiamo è dominato dai fratelli musulmani, a non approvare queste due leggi. Nel suo messaggio Talawi sottolinea che marginalizzare le donne e ridurre i loro diritti ha un effetto negativo sullo sviluppo umano di tutto il paese, visto che le donne sono metà della popolazione. Numerosi deputati del nuovo governo maggiormente islamici sono accusati di attaccare i diritti delle donne nel paese, vogliono cancellare numerosi, se non tutte, le leggi che garantiscono i diritti alle donne, per esempio anche il diritto di ottenere il divorzio senza ostruzione. Dopo questa notizia mi sono detto che volevo andare a fare un giro su questa storia del matrimonio e dell'età del matrimonio. Ho trovato che secondo l'International Center of Research of Women, 51 milioni di ragazze dall'età di 15 a 19 anni sono attualmente sposate. Prima dei 10 anni, il numero delle ragazze sposate prima di attenere 18 anni sarà di 100 milioni. Allora, guardando un po', ho trovato tutta la lista dei matrimoni, dell'età dei matrimoni. Diciamo che ci sono comunque, come lo sappiamo, delle leggi maggiormente in molti paesi in cui l'età per sposarsi è di 18 anni, e che queste leggi sono poi sottoposte a possibilità di essere cambiati quando i genitori lo chiedono, dunque lo sappiamo un po' questa cosa. Ma vediamo per esempio che se guardiamo, abbiamo 15 anni in Laos, abbiamo 14 anni in Myanmar, abbiamo 16 anni in Nepal, abbiamo in Arabia Saudita nessun età, abbiamo 14 anni in Brunei, abbiamo 15 anni in Belarus, abbiamo comunque 16 a 18 anni è la cosa la più che arriva il più spesso. Abbiamo anche nell'America del Sud, abbiamo 15 anni, abbiamo 15 anni in Suriname, 14 in Messico, abbiamo 14 in Venezuela, abbiamo 12 anni in Colombia se c'è l'autorizzazione. Allora è un fattore importante, un fattore di lotte delle donne molto importante in questo mondo, nel fatto che comunque il matrimonio a 14 anni significa, o anche nei paesi in cui comunque non ci sono neanche di età, e lo sappiamo, le ragazze sono sposate anche a 10 anni, 8 anni, 6 anni, e dunque il matrimonio precoce così comunque si traduce con violenza sessuale e da parte dello sposo, dell'uomo a chi è data la ragazza, di gravidenze non volute e di non possibilità di studiare e di sviluppare comunque un'adolescenza di piena épanouissement. Ecco, rimaniamo in Africa, scendendo un po', ascoltando una griotte del Mali. eccomi. Sì, volevo continuare scendendo un po' nell'Africa del Sud, che comunque lo sappiamo ha visto con questo grande evento della morte di Nelson Mandela. E, a proposito, dunque, volevo parlare di una email che abbiamo ricevuto questa era in dicembre, di Zanelle Muoli, che ci fa sapere comunque ogni volta del fatto che della nuova uccisione delle lesbiche. E dunque lei scrive: care amiche, guardate le ultime notizie da Incanizio Online. Una lesbica nera brutalmente uccisa a Ratanda. La sua ragazza è sopravvissuta. Perché mia figlia è stata uccisa come un animale? Le parole della sua madre. Condividete con amici allenati, cittadini consapevoli. Grazie, Zanelle Muoli. Ritroverete sul nostro sito comunque la notizia. Infatti, dunque, ne approfitto per lanciare una canzone di Tansitiwa Mazai, che vi ricordate quando è venuta Zene Muoli, questa fotografa che fa un lavoro su, infatti, la visibilizzazione delle uccisioni di lesbiche nere in Africa del Sud. Lei aveva chiesto questa cantante, che sono contenta di mandarvi. Goba nansi nkatazo yo nansi busu nansi nasemi tuziva ndipamba hey nkatazo tunalambuma tunalambuma hey hey Nothing at all. parliamo di una causa molto cara alla comunità LGBT, il diritto al matrimonio. Tutte le settimane o quasi si vede un altro stato degli Stati Uniti che dà il diritto al matrimonio omosessuale. È stato un grande dibattito in Francia l'anno scorso e per questo volevo condividere delle analisi di Marie-Jo Bonnet, che in questo ultimo saggio che ha scritto, che si chiama analizza una trasformazione radicale e regressiva della nostra società e dice: ma sarebbe più difficile di stabilire l'uguaglianza tra i sessi che tra le sessualità? Il matrimonio per tutti è un progresso o il vestito nuovo dell'ordine patriarcale? Una normalizzazione che seppelli la controcultura e l'emancipazione femminile? Addio ribelle. L'autrice suona l'allarme. La rivendicazione di un diritto al bambino con il ricorso a tecniche medicali è suscettibile di rivoluzionare la filiazione o è solo un seguito logico del matrimonio per tutti? Il rischio di arrivare a una nuova schiavitù per le donne e a un rinnovo della guerra tra i sessi è grande. Una minorità sta facendo il gioco del neoliberalismo, questo flagello che non finisce mai di distruggere le vite, le coscienze, l'economia, il legame sociale e il futuro del pianeta in nome del profitto. Si traveste in sublimi orpelli dell'eguaglianza mentre non fa altro che appoggiare i privilegi di alcuni. Marie-Jo Bonnet dunque analizza in questo saggio una trasformazione radicale e regressiva della nostra società e spiega in un modo convincente il suo profondo disaccordo da fronte agli orientamenti recenti del movimento omosessuale che ha abbandonato il suo progetto iniziale di emancipazione collettivo. E rimaniamo in Europa, parlando del diritto all'aborto minacciato in Italia. Questo lo sappiamo da molto tempo, noi non facciamo altro che di riportare nel nostro martedì il fatto che di più e di più è difficile di abortire in Italia, quando... Scusate, mi cerco. Quando c'è un allarme, la 194 così sta morendo in legge. In Italia torna l'aborto clandestino, oltre il 80% dei ginecologi e obiettori di coscienza, e le donne respinte dall'istituzione tornano al segreto. 20.000 le interruzioni di gravidanza illegali calcolate dal Ministero della Sanità, ma secondo alcune stime sono almeno il doppio. Ambulatori fuori legge e farmacie contrabbando, una sconfitta per tutti perché la norma funzionava, ma è diventata una corsa a ostacoli. Infatti ricevamo delle compagne, dei consultori, questo fatto che, come tutti primo sabato del mese, dispari ancora una volta i preganti antiabortisti del comitato No 194 si ritroveranno davanti agli ospedali di diverse città durante una maratona di 9 ore di preghiera contro aborto e eutanasia, che tra parentesi la legge per l'eutanasia è passata in Francia, e dunque molesteranno le donne di passaggio con i loro manifesti splatter e le loro litanie colpevolentesi. E davanti a questa impegnando a diffondere una propaganda omofoba, transfoba e razzista, che due ovaie, dicono le compagne, e hanno mandato anche tutti contro presidi che si sono svolti il 4 gennaio scorso in tutte le città. Ugualmente il governo spagnolo Rajoy ha appena annullato la legge che autorizza l'aborto, parlando di una legge organica di protezione della vita e dei diritti della donna incinta. Per assicurare la sua base elettorale e consolidare la posizione delle valori tradizionaliste, fondamentaliste e religiosi, dunque fa passare al secondo piano i problemi economici che toccano gli spagnoli. Non facendo caso delle raccomandazioni dei test internazionali, il Consiglio dei Ministri spagnoli è così tornato su un diritto maggiore per le donne, che è la legge di 2010 che legalizzava l'aborto fino a 14 settimane di gravidanza. E dunque subordona la scelta delle donne a un controllo medicale e sociale, perché questa proposizione di legge prevede l'autorizzazione di abortire in tre casi tre specifici: quando c'è un pericolo per la vita della donna o la sua salute fisica o psicologica, quando c'è stato uno stupro, alla condizione che la donna avesse denunciato, e quando c'è la malformazione fetale del feto. In questo momento la Spagna attraversa una crisi economica grave e le donne ricche potranno comunque andare fuori della Spagna per abortire, come era il caso negli anni 80 e 90, mentre le altre donne non hanno scelta che di frequentare le cliniche clandestine, di abortire fuori della legalità, e tutto questo al pericolo della loro vita. E questo e questo era una piccola parte, una traduzione di un piccolo flyer mandato da una serie di associazioni francesi che hanno chiamato a un presidio sabato scorso. Agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, come un acido, mi sento grande, come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, resto che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è. Viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò. Così lontano, non sono stata mai, non sono stata mai, già ripartirei. Mi sento bene, un po' stordita, ma gioiosa, ma gioiosa. Acida dentro, acida con chi, acida con chi, acido non è. Acido giorno, mi rallegra, mi rallegra, questa acida. E continuiamo un po' le nostre notizie. Le Pussy Riot, siamo sempre nello stesso fusario orario, diciamo. E le Pussy Riot sono di ritorno e, come da solito, non fanno altro e non fanno le cose a metà, neanche nella finezza. Le femministe russe tornano per contro il potere che sono nel loro paese. Il gruppo ha lanciato un clip che poi fra un po' mandiamo, in cui comunque denuncia la politica economica e petrolaria del petrolio di Putin. In un'intervista i membri del gruppo punk Pussy Riot sono determinate a continuare il loro impegno. Maria Atlokina e Nadzeda Tolokonikova spiega dunque in un'intervista come hanno messo in piede un nuovo gruppo che si chiama Zona Prava, che significa zona di giustizia, e reagiscono al fatto delle prossime Olimpiadi che si terranno il mese prossimo a Sochi. Quando il vostro nuovo movimento di difesa dei diritti umani sarà lanciato? La nostra organizzazione, battezzata Zona Prada, sarà ufficialmente registrata alla fine gennaio, ma prima di questo un sito internet sarà lanciato e tutte le informazioni saranno diffuse sulle reti sociali. quali saranno le prime azioni di Zona Prava? Le prime azioni saranno prima di tutto dedicate a delle persone con quali abbiamo un legame particolare, le donne condannate e che hanno comunque militato, abbiamo fatto azioni per i diritti umani e che si ritrovano nei campi di prigionieri. Sono vittime di repressioni e il nostro primo obiettivo è di proteggerle giuridicamente. Si tratta soprattutto di denuncia e contro diverse autorità locali e giudiziarie. L'ex oligarca che si opponeva a Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovskij, è stato graziato e liberato. Potete collaborare con lui? Questo è possibile, un'eventualità che è sempre all'ordine del giorno, ma per il momento noi non possiamo dire niente di concreto. La sua risposta alle nostre proposte di collaborazione è ancora confidenziale. Le Pussy Riot si producono di nuovo sulla scena, sul palco. Il collettivo esiste sempre ancora e continuerà a esistere. Le Pussy Riot si producono e produscono dei pezzi e dei video, ma da un po' hanno smesso di essere un gruppo, è diventato un movimento sociale che è molto più ampio e questo si continua a evolvere nel futuro. Le Olimpiadi quest'inverno saranno in Russia. Voi siete per il boicottaggio. Certo, come cittadine russe noi boicottiamo gli Olimpiadi e vogliamo anche chiamare tutti cittadini opposti alla politica del governo, ma anche le imprese e i rappresentanti stranieri a boicottare l'evento. Vi mando Like Red Prison, che è l'ultimo spot e video che loro hanno prodotto. Si vedono loro a attaccare dei canali di gas, stanno con un martello e stanno comunque distruggendo questi grossi tubi di gas naturale. Труда! Страной освоенной едва! нефть не на тот тратит. В мордовской тишине дней готовит салаты и иногда их ест. E con questo grido delle Pussy Riot, che secondo me incarnano abbastanza bene la lotta al neoliberalismo, la lotta al potere delle religioni dentro la società civile e anche la lotta di liberazione e la resistenza alla repressione, vi lascio e vi dico a fra due settimane. Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopoliticale. Aye bete, yo chino, encarum, le twisti mala. Tanti po' menne, un cantini, poi sei coi, uftala. Eine Kellerassel, wir sind lesbisch, haben Mut, haben schon so lange gewartet. Hilf uns von uns, nur die Wut. Lassiga, lassiga, non sono pentita, ho scelto da me, qual è la mia vita. Me viens, tout unis, pour le même combat. Me viens, tout unis, pour le même combat. Me viens, tout unis, pour le même combat.